Il sole adesso era scomparso e dal lago saliva un alito gelido. Le tenebre calavano dal cielo, lo spavento strisciava sulle orme della notte, nella foresta si udivano passi furtivi e froscii. Finito il bel coraggio di cui Nils aveva dato prova lassù in cielo e nella sua angoscia cercò conforto nelle sue compagne di viaggio. Ormai non gli restavano che loro. S'avvide che il papero era più malconcio che mai, giaceva nel punto in cui aveva preso terra e sembrava lì lì per morire. Il collo afflosciato al suolo, gli occhi chiusi, il respiro appena percettibile. «Caro papero Morten», lo esortò Nils, «perché non bevi un sorso d'acqua? Il lago è a due passi!» Ma Locone non si mosse. Fino a quel giorno Nils era stato crudele con gli animali e anche con il papero. Ma ora questo gli appariva l'unica ancora di salvezza e l'idea di perderlo lo terrorizzava. Prese a spingerlo verso l'acqua ed era faticoso perché il papero era grosso e pesante, ma alla fine ci riuscì. L'oca piombò nel lago a testa in giù, per un istante restò immobile, poi levò il capo, scosse l'acqua che l'accecava, soffiò e infine prese a nuotare maestosa tra le canne. Le altre oche si erano gettate in acqua prima di lui, senza curarsi di lui né del suo cavaliere, e dopo essersi spulezzate, stavano mangiando lenti palustri e trifoglio d'acqua. Morten ebbe la fortuna di adocchiare un piccolo pesce persico, lo afferrò col becco, nuotò a riva e lo depose ai piedi del ragazzo. «È per te, in cambio del favore che mi hai fatto spingendomi in acqua», disse. Era la prima espressione gentile che Nils aveva udito durante la giornata e ne fu così contento che avrebbe abbracciato l'oca. Si sentiva felice del dono, anche se ritenne dapprima impossibile mangiare il pesce crudo. Poi però gli venne voglia di assaggiarlo. Si frugò in tasca per cercare il suo coltellino e lo trovò, ancora attaccato alla cintura dei calzoni, ma divenuto tanto piccolo da non essere più lungo di un fiammifero. Sufficiente, tuttavia, per squamare e sbuzzare il pesce che in un attimo fu divorato. Poi si vergognò di averlo mangiato crudo e pensò: si vede bene che non sono più un essere umano, bensì un coboldo. Quando ebbe ingoiato l'ultimo boccone, il papero che gli era rimasto seduto accanto gli sussurrò: siamo finiti tra una banda di oche che disprezzano gli uccelli domestici. Me ne sono accorto, rispose Nils. E per me sarebbe una bella vittoria se riuscissi a seguirle fino in Lapponia, dimostrando loro che anche un'oca domestica è capace di qualcosa. Riprese il papero piuttosto preoccupato. Già, convenne Nils con voce incerta, perché non credeva che Morten fosse in grado di farcela e d'altra parte non osava contraddirlo. Non credo però di riuscire a cavarmela da solo in un viaggio del genere, riprese Morten. Te la sentiresti di venire con me e aiutarmi? Il ragazzo non aveva altro pensiero che di tornare al più presto a casa e restò talmente sorpreso che riuscì a balbettare soltanto: credevo che noi due fossimo nemici. Ma Locone sembrava aver dimenticato gli sgarbi subiti per ricordare solo che gli doveva la vita. Dovrei ritornare dai miei genitori, insistette Nils. Ti riporterò da loro in autunno, replicò il papero. Non ti abbandonerò prima di averti deposto sulla soglia di casa tua. Nils pensò che forse non era male restare per qualche tempo alla larga dai genitori. La proposta non gli dispiaceva e stava per dare il proprio consenso quando dietro di loro si levò un formidabile rombo. Le oche selvatiche erano uscite tutte insieme dall'acqua e scuotevano con forza le ali. Poi, in una lunga fila, l'oca guida in testa, si diressero alla loro volta. Guardandole, Morten si sentì sulle spine. Le aveva credute assai più simili alle oche domestiche, e invece erano molto più piccole di lui e nessuna bianca, ma tutte grigie con striature brune e occhi che facevano quasi paura, gialli e brillanti come se dentro ci fosse il fuoco. E non camminavano, correvano, ma a sgomentarlo soprattutto furono le zampe. Erano grandi, con la pianta logora e squamata. Chiaramente le oche selvatiche non stavano mai ferme. Avevano un bel piumaggio, ma dalle zampe si capiva che erano povere vagabonde, abitatrici di luoghi deserti. Morten ebbe appena il tempo di sussurrare al ragazzo: «Sii franco, ma non dire assolutamente che sei un essere umano». Intanto, le oche selvatiche erano giunte davanti a loro e li salutarono chinando più volte il capo. Il papero fece altrettanto, ma più a lungo. Poi l'oca capostormo disse: Desidereremmo sapere chi siete. Non ho molto da raccontare, rispose il papero. Sono nato a Skanör la primavera scorsa e in autunno sono stato venduto a Holger Nilsson di Vemmenhög, dal quale sono stato fino ad ora. Non mi sembri di nobile schiatta, disse H, la capogruppo delle oche. E dunque come mai ti è venuta l'idea di seguire le oche selvatiche? Ma forse per mostrarvi che anche noi oche domestiche sappiamo fare qualcosa. Non chiediamo di meglio, replicò H. Abbiamo visto le tue prodezze nel volo, ma forse te la cavi meglio col nuoto, eh? Non potrei dirmi un campione, rispose Morten con l'impressione che volessero liberarsi di lui. Non ho mai percorso a nuoto più di uno stagno. Ma forse corri bene, disse l'oca selvatica. Non ho mai visto correre un'oca domestica e non mi ci sono mai provato, dovette ammettere il papero. Ormai era certo che H l'avrebbe scacciato dal gruppo e fu dunque molto sorpreso quando la udì dire: Rispondi sinceramente alle domande e chi ha coraggio può diventare un buon compagno, anche se da principio non sa far nulla. Potresti forse restare con noi qualche giorno perché si possa vedere di che cosa sei capace, ti va? E come? Rispose l'ocone tutto contento. A questo punto H indicò col becco Nils. Chi è questo che ti porti dietro? Mai visto un essere simile. È il mio compagno di viaggio, spiegò il papero. È stato guardiano d'oche tutta la vita e penso che potrebbe esserci utile. Utile forse a un'oca domestica, ribatté H. Come si chiama? Ha vari nomi, rispose il papero con una certa esitazione. Non sapeva come trarsi d'impaccio e non voleva tradire il ragazzo. Si chiama Pollicino, si decise a dire. Appartiene forse alla famiglia dei Coboldi? Chiese H, ancora insoddisfatta. A che ora vi mettete a dormire voi oche selvatiche? Replicò il papero per cambiare discorso. A me già si chiudono gli occhi dal sonno. H era molto vecchia, lo si vedeva subito. Il piumaggio era grigio pallido, senza strie più scure. Aveva la testa più grossa, le zampe più robuste, i piedi più logori delle altre. Le piume erano rade. Le scapole risaltavano sotto il collo magro, solo gli occhi non erano stati vinti dall'età, avevano anzi una vivacità più giovanile di quelli delle sue compagne. Con aria altera disse al papero: Sappi che io sono H di Kebnekaise. L'oca che vola alla mia destra è Ixi di Vasi Aure, quella che vola alla mia sinistra è Caxi di Nuolia. La seconda destra è colmo di Sariet Kejako. E la seconda a sinistra è Nelio di Svapavara. Dietro a questa volano a destra Visi di Fils, di Ovik e Kusi di Siangeli. E sappi che tutte, comprese le sei giovani che volano tre a destra e tre a sinistra, in coda alle altre, sono tutte oche di alta montagna, delle migliori famiglie. Non pensare dunque che noi siamo vagabonde, pronte ad accogliere chiunque tra noi, e tieni presente che non condividiamo il nostro giaciglio con chi non vuol dire da quale famiglia discenda. A queste parole il ragazzo fece arditamente un passo avanti. Era seccato che il papero, così franco quando si trattava di se stesso, apparisse tanto reticente quando si trattava invece di lui, Nils. Non nascondo affatto chi sono, disse. Mi chiamo Nils Holgersson e sono il figlio di un fittavolo. Fino a ieri ero un essere umano. Ma questa mattina non poté continuare. Appena ebbe pronunciato la parola essere umano, H fece tre passi indietro e le altre più ancora, e tutte allungarono il collo e soffiarono infuriate. L'ho sospettato. Non appena ti ho visto sulla riva, disse H. Adesso vattene. Non tolleriamo esseri umani tra noi. Ma Morten insorse. Non è possibile che voi oche selvatiche abbiate paura di un cosino tanto piccolo. Domani tornerà di sicuro a casa sua, ma per questa notte lasciate che resti con noi. Potremmo forse lasciare questo poverino alle prese con volpi e donnole? H si avvicinò, circospetta, e disse: Ho imparato a temere tutto ciò che è umano, grande o piccolo che sia. Ma se tu rispondi di lui, papero, che resti pure. D'altronde, non credo che il nostro ricovero notturno andrà a genio, a te o a lui, perché dormiremo sul ghiaccio galleggiante. Indubbiamente pensava che il papero Avrebbe esitato a seguirle, ma Morten si limitò a dire: «Scelta saggia la vostra!» «Comunque mi assicuri che l'essere umano domani se ne andrà?» soggiunse H. «Vuol dire che dovrò andarmene anch'io», replicò il papero, «perché ho promesso di non abbandonarlo». «Ma sei libero di andartene quando e dove vuoi», rispose l'oca selvatica. E allargate le ali, andò a posarsi sul ghiaccio, seguita dalle compagne. Nils era desolato che il suo viaggio in Lapponia andasse in fumo e poi temeva la notte. «Andiamo di male in peggio, papero», esclamò. «Moriremo assiderati sul ghiaccio». Ma Morten appariva di buon umore. «Niente paura, va a cercare paglia ed erbe, portano più che puoi». Quando il ragazzo ebbe raccolto una buona bracciata di erbe secche, il papero lo afferrò per il colletto della camicia, si alzò con lui e lo portò sul ghiaccio dove le altre oche, immote, su un piede solo, la testa sotto l'ala, dormivano già. «Ora stendi l'erba sul ghiaccio perché le zampe non mi ci si attacchino. Aiutami e io aiuterò te», disse il papero. Il ragazzo obbedì e Morten lo afferrò di nuovo con il becco e se lo mise sotto un'ala perché stesse al caldo. Nils si sentiva benissimo tra le piume morbide e, stanco com'era, ben presto si addormentò. La notte. Si sa che il ghiaccio inganna e non c'è da fidarsi. Nel cuor della notte il banco del lago di Vomb si spostò e toccò riva. Se ne avvide Smirre, il volpone, che aveva la tana nel parco del convento di Öved ed era intento alla caccia notturna. Aveva già notato le oche la sera al loro arrivo, ma senza speranza di poterle avvicinare. Corse immediatamente sul ghiaccio. Le oche si svegliarono e agitarono le ali per levarsi a volo, ma Smirre fu più svelto. Spiccò un balzo, ne afferrò una per l'ala e fuggì. Questa volta però le oche non erano sole. Con loro c'era un essere umano, per quanto piccolo. Nils si era svegliato allorché il papero aveva aperto le ali. Era caduto sul ghiaccio, ancora intontito, senza riuscire a spiegarsi tutto quel baccano, finché non vide una bestia simile a un cane che correva con un'oca in bocca. Balzò in piedi e rincorse il cane cattivo. Dietro di sé udiva la voce del papero che gridava: «Sta attento, pollicino, sta attento!» Ma perché Nils avrebbe dovuto avere paura di un cagnolino? L'oca che Smirre trascinava via udiva i colpi secchi degli zoccoli sul ghiaccio e non credeva quasi alle sue orecchie. «L'ometto spera di raggiungere la volpe e liberarmi», pensava, «ma finirà per cadere in un crepaccio». Invece, nonostante l'oscurità, il ragazzo scorgeva tutte le buche e le fenditure e le schivava, perché adesso aveva la vista acuta dei coboldi. Smirre fu finalmente a terra e si inerpicò sulla riva. E il ragazzo dietro, gridando: «Lascia quell'oca, canaglia!» Il volpone non capiva chi avesse gridato, ma non perse tempo a voltarsi a guardare, accelerando invece la corsa. Penetrò in una foresta di grandi faggi secolari e Nils dietro, senza pensare al pericolo. Si ricordava dell'accoglienza sdegnosa riservatagli la sera prima dalle oche e voleva mostrar loro che un essere umano è superiore a tutte le altre creature. Più e più volte gridò al presunto cane di lasciare l'oca: «Non ti vergogni di rubare una povera bestia? Posala subito, altrimenti ti riempio di botte e lo vado a dire al tuo padrone». Smirre, resosi conto di essere stato scambiato per un cane che ha paura delle bastonate, si mise a ridere tanto che per poco non si fece sfuggire la preda. Era un predone temuto, lui non cacciava topi e ratti nei campi, ma penetrava nelle fattorie per rubarvi polli e oche. Era il terrore dell'intera contrada e trovava ridicole le minacce del nanetto. Questi però correva così svelto che i tronchi dei faggi gli volavano accanto e la distanza tra lui e Smirre diminuiva, tanto che riuscì ad afferrarlo per la coda. «Adesso ti riprendo l'oca!» gridò tirando con tutte le sue forze. Ma non ce la faceva a trattenere Smirre, che se lo trascinava dietro in un turbinio di foglie secche. Il volpone si era reso conto che l'inseguitore non era pericoloso. Si fermò, posò l'oca a terra tenendovela con le zampe anteriori e preparandosi ad azzannarla al collo. Ma non seppe resistere alla tentazione di stuzzicare il ragazzo. «Corri a denunciarmi al padrone!» gli disse. «Intanto io sgozzo l'oca!» Nils, riconosciuta la volpe dal naso appuntito e dalla voce rauca, non provò affatto paura, ma piantando i piedi contro le radici di un faggio, Tirò con tutte le forze nel momento in cui Smir stava per azzannare l'oca e lo strappo fu così improvviso che la volpe arretrò, lasciando libera la preda. Questa trovò un'apertura tra i rami e rivolò al lago. Smirre si lanciò allora contro il ragazzo gridando «Quella mi è sfuggita, ma vorrà dire che prendo te!» «Credi proprio? Guarda che ti sbagli!» rispose Nilsring alluzzito dal suo successo. Continuava a stringere la coda del volpone e questo si girava su se stesso per ghermirlo, ma anche la coda girava e con essa Nils, il quale dapprima non fece che ridere e beffarsi di Smirre, che però aveva la tenacia dei vecchi cacciatori, e il ragazzo cominciò a temere che alla fine si mettesse male per lui. Scorse un giovane faggio, sottile e diritto come un palo, che si spingeva verso il cielo attraverso l'intrico dei rami, e al momento buono lasciò la coda e vi si arrampicò. Smirre non se ne accorse subito, ma continuò a danzare in tondo. «Ehi, hai ballato abbastanza!» gli gridò il ragazzo. Allora Smirre, che non poteva sopportare la vergogna di essersi lasciato infinocchiare, si piantò ai piedi del faggio a fargli la posta. La situazione di Nils non era delle più felici. L'albero era basso, il ramo su cui stava esile, lui era intirizzito e aveva un gran sonno, la foresta era terribilmente sinistra a quell'ora della notte, il mondo intero sembrava inghiottito per sempre dalle tenebre. Finalmente spuntò l'alba, ogni cosa riprese forma e colore, il sole si levò, non giallo, bensì rosso, quasi fosse in collera. Forse, si disse il ragazzo, era per via del tanto freddo che la notte aveva diffuso in sua assenza. Intanto gli giungevano dal lago gli schiamazzi delle oche che si apprestavano a partire e infatti di lì a poco passarono sulla foresta. Nils si provò a chiamarle, ma erano troppo alte e poi quelle dovevano essere persuase che la volpe se lo fosse mangiato, tant'è che neppure si curavano di cercarlo. Nils prese a piangere di paura, ma il sole, che adesso splendeva in cielo, sembrava infondere coraggio all'intero creato e dirgli «Finché ci sono io, sta di buon animo, Nils Holgersson». Il gioco delle oche, lunedì 21 marzo. Nulla accadde nella foresta sino alla fine della mattinata, quando si vide un'oca solitaria volare bassa sotto il fogliame degli alberi, cercando la strada tra i tronchi e i rami e procedendo assai lentamente. Non appena Smirre la scorse, lasciò la posta e scivolò verso di lei. L'oca non evitò la volpe, anzi le volò vicino. Smirre fece un salto per acchiapparla, ma la mancò e l'uccello continuò il volo verso il lago. Poco dopo ne comparve un'altra, questa volava ancora più adagio e più bassa, accostandosi vieppiù a Smirre, che fece un tale balzo che le sue orecchie le sfiorarono le zampe. Ma anche quell'oca continuò il volo verso il lago. Poco dopo ne venne una terza, ancora più lenta e più vicina a terra. Nuovo salto di Smirre che la mancò di un soffio. Sparita quella, eccone una quarta, così lenta e bassa che Smirre avrebbe potuto catturarla senza difficoltà, ma temendo un nuovo fallimento decise di lasciarla andare. L'oca però scese così in basso che il volpone non seppe resistere alla tentazione e la sfiorò con una zampa. Un guizzo di fianco e l'oca sfuggì. Prima che Smirre potesse riprendere fiato, vennero tre oche in fila che fecero come le precedenti e Smirre si sfiancò in nuovi salti. Poi ne vennero altre cinque, ma invano provocarono la volpe. Smirre non si lasciò adescare. Ci fu un lungo intervallo, quindi sopraggiunse un'oca sola. Era la tredicesima. Era vecchia, tanto da essere tutta grigia. Volava a stento, sfiorando il suolo con un'ala. Smirre questa volta non s'accontentò di saltare, ma la inseguì, correndo in direzione del lago. Invano. E quando comparve la quattordicesima oca, fu davvero uno spettacolo. Era tutta bianca. A ogni colpo d'ala sembrava che nella buia foresta si diffondesse un chiarore. Smirre fece un balzo tale da toccare il fogliame, ma anche l'oca bianca gli sfuggì. Ai piedi dei faggi ci fu un momento di tranquillità. Smir si ricordò del suo prigioniero e levò gli occhi all'albero. Pollicino era scomparso. Ma la volpe non ebbe il tempo di dolersene. Tra gli alberi era riapparsa la prima oca e Smir, tutto contento di rivederla, si lanciò al suo inseguimento. Purtroppo per lui non aveva calcolato bene la distanza e il volatile scomparve. Seguirono una seconda, una terza, una quarta e una quinta oca e via via tutte le altre, comprese quella tutta grigia e la bianca, sempre volando basse e lente come per invitare la volpe a saltare. Ma gli sforzi di Smirre erano vani. Fu il giorno più amaro della sua vita. Le oche selvatiche continuavano a passargli e ripassargli sulla testa ed erano belle grasse, ben nutrite sui campi e le lande di Germania, e Smirre le toccava quasi, ma non riusciva a cavarsi la fame. Aveva trascorso un duro, lungo inverno, ma lo smacco era ben peggiore della fame dei mesi passati. Non era più giovane. Troppe volte i cani gli erano giunti al pelo, troppe volte i pallini dei cacciatori gli avevano sfiorato le orecchie, eppure era sempre riuscito a rintanarsi al sicuro, sfuggendo alla caccia. Ma la paura provata in quelle occasioni era nulla a confronto del disappunto che provava ogni balzo a vuoto. La mattina, quando il gioco era cominciato, Smir appariva così bello che le oche ne erano rimaste stupite. La pelliccia rossa, lucente, il petto bianco, le zampe nere, la coda morbida come una piuma di struzzo. Ma verso sera il pelo era arruffato, gli occhi smorti, la lingua penzolante dalle labbra schiumanti. Le oche continuarono il loro gioco, tormentando implacabilmente il povero Smir, e la smisero solo quando il volpone, spossato, si afflosciò su un mucchio di foglie secche lì lì per tirare le cuoia. «Così saprai quanto costa aggredire Acca di Kebnekaise!» gridarono gli uccelli all'orecchio di Smir prima di andarsene definitivamente. Vita con gli animali selvatici. Nella masseria. Giovedì 24 marzo. Proprio in quei giorni nella Scania si verificò un evento di cui si discusse a lungo, ne scrissero i giornali e molti, non sapendo spiegarselo, lo ritennero una frottola. Nel territorio del convento di Öved era stata catturata una femmina di scoiattolo e l'avevano portata in una vicina masseria dove tutti, giovani e vecchi, si divertivano un mondo a osservare la vivace bestiolina dalla lunga coda, gli occhi intelligenti e curiosi, le zampette agili. Rimisero in ordine una vecchia gabbia da scoiattoli consistente in una casetta di legno dipinta di verde che aveva all'interno un cilindro girevole fatto di fili di ferro. Nella casetta, che era munita di finestrini e uscioli e che dovette servire da sala da pranzo e camera da letto, prepararono un giaciglio di foglie, misero una ciotola di latte e un pugno di nocciole. La ruota doveva fungere da stanza da giochi della bestiola che avrebbe potuto correre, arrampicarsi e girare a piacimento. Quelli della masseria si meravigliarono che lo scoiattolo non si mostrasse soddisfatto della nuova dimora. La bestiola si era rifugiata tutta triste in un angolo ignorando il cilindro. «Ha paura», dicevano, «ma vedrete che domani si sentirà a casa sua, mangerà e giocherà». In quel momento le donne di casa stavano preparando un gran pranzo e cuocevano le focacce. Ma vuoi che la pasta non lievitasse bene, vuoi che fossero state distratte dallo scoiattolo, fatto sta che dovettero continuare il lavoro anche in ore notturne. E allora nessuno ebbe più il tempo di occuparsi della prigioniera. In casa però c'era una vecchia nonna che l'età avanzata rendeva buona a nulla, se ne accorgeva anche lei, ma non se la sentiva di venir messa da parte. Troppo triste per andarsene a letto, si sedette alla finestra guardando fuori. Faceva caldo, l'uscio della cucina era stato lasciato aperto, ne usciva una striscia di luce che si spandeva nel cortile, e la vecchia poteva distinguere le buche e le crepe del muro di fronte. Su questo era appesa la gabbia con lo scoiattolino, che correva di continuo dalla casetta alla ruota, dalla ruota alla casetta. Che fosse la luce a impedirgli di dormire? Stalle e scuderie erano collegate da un'ampia tettoia e anche quella zona era illuminata dalla luce della cucina. A un certo punto la nonna scorse un ometto alto una spanna con calzoni di cuoio e zoccoli ai piedi che avanzava a passi prudenti sotto la volta. Doveva essere il coboldo che, a quanto si diceva, abitava nella masseria e la vecchia non ne ebbe paura. Sapeva anzi che i coboldi portano fortuna. Entrato in cortile, il coboldo corse alla gabbia dello scoiattolo e, essendo troppo piccolo per raggiungerla, andò a prendere uno stecco. L'appoggiò al muro, vi si arrampicò, scosse l'usciolo della casetta. Ma la vecchia era tranquilla, sapeva che i ragazzi della masseria vi avevano messo un lucchetto per paura che i vicini rubassero lo scoiattolo. Il coboldo non riusciva ad aprire la porticina e la vecchia vide lo scoiattolo salire sul cilindro. Tra i due vi fu un conciliabolo, poi il coboldo si lasciò scivolare lungo lo stecco e scomparve. Poco dopo, rieccolo, correva così in fretta che i piedi quasi non toccavano terra. Tra le mani aveva qualcosa che la nonna non riusciva a distinguere. Arrivato alla gabbia, ruppe il vetro della finestrina con uno zoccolo e tese alla scoiattolina quel che aveva nella destra. Scese a terra, prese ciò che vi aveva posato, porse anche questo alla bestiolina prigioniera e quindi scomparve in un lampo. La vecchia non seppe resistere alla curiosità. In punta di piedi uscì in cortile e si appiattò all'ombra del pozzo per seguire i maneggi del coboldo. Anche qualcun altro però li aveva notati. Il gatto, che strisciò cautamente lungo il muro, fermandosi a un passo dal raggio di luce. Vecchia e gatto aspettarono a lungo nella fredda notte di marzo e già la nonna stava per rinunciare quando si udì un rumore di zoccoli sul selciato. Era il coboldo, che aveva entrambe le mani cariche di qualcosa che si agitava. La vecchia comprese che era andato nel bosco a cercare i piccoli dello scoiattolo e glieli portava perché potesse allattarli. Rimase immobile per non spaventare il coboldo. Questi stava per posare a terra uno degli scoiattolini quando vide brillare vicinissimi i verdi occhi del gatto. Si immobilizzò perplesso, sempre con le due bestioline in mano. Poi si volse attorno e, scorta la nonna, andò senza esitare alla sua volta e le porse uno dei piccoli. Con l'altro si arrampicò fino alla gabbia, quindi discese a prendere quello che aveva affidato alla vecchia. La mattina dopo, quando la gente della masseria si raccolse per far colazione, la vecchia riferì l'accaduto. Tutti si burlarono di lei, dicendole che doveva avere sognato e che in quella stagione gli scoiattolini appena nati non ce n'erano. Ma la vecchia, certa del fatto suo, li mandò a guardare nella gabbia e così, sul giaciglio di foglie, furono trovati quattro scoiattolini ancora senza pellicce e semiciechi, che non potevano avere più di 2 o 3 giorni di vita. Quando il massaro lo venne a sapere, osservò: «Ci siamo comportati in maniera vergognosa», e prese la scoiattolina con i 4 piccoli, li mise nel grembiule della nonna e le disse: «Va nel boschetto di noccioli e rendi loro la libertà». Questo è l'avvenimento di cui si parlò tanto e di cui scrissero persino i giornali, ma molti non vollero crederci perché non riuscivano a spiegarselo. Topi neri e topi grigi. Nella Scania meridionale, non lungi dal mare, sorge un antico castello chiamato Casa Glimminge. Consiste di un unico corpo tutto in pietra, tanto alto che lo si vede a distanza di molte miglia. Ha solo 4 piani, ma è così enorme che l'edificio rustico che gli sta accanto sembra al confronto una casa da bambole. Le mura, le pareti e le volte sono così massicce che all'interno resta poco spazio. Le scale e i corridoi sono angusti, le stanze piccole e basse. Per non compromettere la solidità delle mura, sono state aperte solo poche finestre ai piani superiori, mentre quelli inferiori presentano appena qualche stretta feritoia. Al tempo delle antiche guerre, la gente era ben lieta di trovare rifugio in un luogo così sicuro, non meno di quanto lo siamo noi oggi di indossare una calda pelliccia in pieno inverno. Da molto tempo Glimminge non serve più da ricovero, è stato trasformato e negli alloggi adesso entrano l'aria e la luce. All'epoca in cui Nils Holgersson vagava qua e là con le oche, casa Glimminge era disabitata. Una coppia di cicogne aveva fatto il nido sul tetto, tornandovi ogni estate. Nel solaio abitavano 2 civette, pipistrelli pendevano a testa in giù dalle volte dei corridoi, Nel focolare della cucina aveva preso alloggio un vecchio gatto e la cantina ospitava qualche centinaio di ratti dell'antica stirpe nera. I ratti non sono tenuti in buona considerazione dagli altri animali, ma quelli di Glimminghe facevano eccezione. Tutti ne parlavano con rispetto perché avevano dato prova di grande valore nelle lotte contro i nemici, mostrandosi anche forti nelle calamità che avevano colpito il loro popolo. Appartenevano a una razza di roditori, un tempo numerosa e potente, ma ormai in via di estinzione. Per lunghi anni erano stati i veri padroni della Scania. Ce n'erano in ogni cantina, nei granai e nei fienili, nelle stalle, nelle chiese, nei castelli. Ma erano stati ovunque scacciati e quasi sterminati e ora vivevano sparsi qua e là in luoghi solitari. Solo a Glimminghe se ne trovavano ancora in buon numero. Se una specie di animali si estingue, è sempre a causa degli uomini, ma non era il caso dei ratti neri. Gli uomini avevano sì fatto guerra ai topi neri, senza però recar loro gran danno. A vincerli era stata una popolazione della loro stessa specie, i ratti grigi. I ratti grigi non erano nativi del paese. Al contrario dei neri, discendevano da pochi poveri coloni che un centinaio d'anni prima erano sbarcati a Malmö da una nave proveniente da Lubecca, affamati e senza casa. Ratti che vivacchiavano nel porto, nuotando tra i pali dei pontili, nutrendosi delle immondizie gettate in mare senza mai entrare in città, dominio dei ratti neri. Un po' alla volta, tuttavia, erano aumentati di numero e si erano fatti più arditi, installandosi dapprima in qualche vecchia casa abbandonata dai neri. Il nutrimento se lo cercavano nei rigagnoli e nei mucchi di rifiuti, accontentandosi di ciò che dai neri era sdegnato. E, robusti e intrepidi, nel giro di pochi anni erano diventati così numerosi da espellere i neri da Malmö. Un po' alla volta avevano conquistato solai, magazzini e cantine. I grigi li affamavano, obbligandoli ad arrendersi o uccidendoli perché non temevano certo lo scontro. Presa Malmö, erano partiti alla conquista dell'intero paese. Difficile capire perché i topi neri non si fossero confederati per annientare i grigi prima che fossero troppo numerosi. Forse si sentivano talmente sicuri del proprio dominio da non credere alla possibilità di esserne spossessati. Ed erano così rimasti tranquilli nei propri domini, mentre gli altri strappavano loro una masseria dopo l'altra, un borgo dopo l'altro, una città dopo l'altra. E i neri avevano ceduto passo passo ed erano stati ridotti alla fame. Erano stati scacciati e sterminati. Nella Scania restava loro soltanto casa Glimminghe. Il vecchio castello aveva mura poderose e pochissimi ingressi e i neri erano riusciti a difenderne l'accesso. Non passava anno, non passava notte senza che i grigi rinnovassero l'assalto. Ma i neri stavano allerta e si battevano con grande disprezzo della morte, grazie all'antico castello l'avevano sempre avuta vinta. Bisogna però ammettere che, quando erano in auge, i ratti neri erano detestati da tutti gli altri esseri viventi, quanto adesso i topi grigi, e con ragione, avevano assalito poveri prigionieri incatenati nelle segrete, divorato cadaveri, rubato fin l'ultima rapa nella cantina del povero, morsicato le zampe delle oche addormentate, derubato le galline di uova e pulcini. Insomma, ne avevano fatte di tutti i colori. Ma da che la sfortuna li perseguitava, tutto era passato nel dimenticatoio e non si poteva non ammirare gli ultimi di una stirpe che per tanto tempo aveva tenuto testa agli avversari.